Innanzitutto ci sono Alessandro, di accoglienza degna. Beh, oggi siamo qua per questo 1° marzo in piazza a partire da tutti i progetti di mutualismo che abbiamo in piedi in questa città, a partire da accoglienza degna, passando per lo sportello migranti, per la scuola calcio dell'HSL, per il dopo scuola, per la scuola d'italiano, a partire da questi progetti di mutualismo nei quali ci confrontiamo quotidianamente con le difficoltà, con le mille frontiere, con i mille confini che trovano nella vita di ogni giorno i migranti che vivono a Bologna, che vivono in Italia, che vivono in Europa, perché crediamo che anche a partire da esperienze di mutualismo reale, con la pratica quotidiana della solidarietà, la pratica quotidiana dei diritti, dalla costruzione di vertenze su temi specifici, si debba partire per costruire delle mobilitazioni che nei nostri territori portino alla conquista dei diritti per tutti e tutte. Chiediamo inoltre che oggi, il dato di ieri, lo sgombro della giungla di Calais, gli scontri al confine tra Grecia e Macedonia, ci evidenziano il fatto che l'Europa è di fronte a un bivio. Di fronte a questo bivio si scontrano due visioni opposte di Europa. Da un lato chi vuole un'Europa aperta, chi vuole un'Europa senza confini, chi quei confini li vuole attraversare perché scappa da guerre, da fame e da povertà. È l'Europa della dignità, è l'Europa dei diritti, è l'Europa che lotta, che butta giù reti, che abbatte muri. Dall'altro lato invece c'è l'Europa della paura, quella dell'emergere dei nuovi nazionalismi, quella dei nuovi fascismi, dalla Le Pen a Salvini. Noi diciamo chiaramente oggi in piazza che è tempo di fare una scelta, che bisogna scegliere da quale parte stare. Non è possibile stare nel mezzo, non è possibile, come diceva Gramsci qualche anno fa, essere indifferenti. Noi oggi scegliamo di stare dalla parte della dignità dell'uomo, dalla parte delle persone che migrano per cercare un futuro migliore, dalla parte di tutti i cittadini europei che esprimono solidarietà, dalla parte di tutti i migranti che lottano per avere una casa, per avere il rinnovo dei permessi di soggiorno, ogni giorno nelle nostre città.